Capitolo 26. Delta del Po, 26 febbraio 1548. Lungo il braccio del Po che collega Ferrara alla costa, con 500 copie del Beneficio di Cristo caricate sulle due imbarcazioni messe a disposizione dagli Usche. Il sole è alto sulle acque limacciose, scrutate dagli uccelli a caccia di cibo sopra le nostre teste e negli anfratti del fiume. Il freddo umido ci intirizzisce sotto le pesanti cappe di lana. Me ne accorgo troppo tardi. La barca, che trasporta la prima metà del carico, ha uno scarto repentino davanti alla nostra. La prua a destra per evitare la zattera spuntata improvvisamente dalle canne verso il centro del fiume. Alle mie spalle l'imprecazione del timoniere. In un attimo il barcone sparisce in un canale secondario, l'imboccatura invisibile per la fitta vegetazione. La zattera subito dietro, a bordo, tre sagome ricurve. D'istinto, imbraccio l'archibugio, cerco di prendere la mira, ma sono già spariti. Al timoniere, seguiamoli! Una virata brusca per non restare indietro, si odono grida e tonfi nell'acqua, ci infiliamo nello stretto canale, solo per imbatterci nell'annaspare confuso dei due barcaioli. La zattera e la barca si stanno allontanando. Li tiriamo a bordo, uno perde sangue da una tempia. La testa mezza fracassata. Non perderli! Sebastiano il gobbo impreca e pianta la lunga pertica sul fondale, spingendo avanti. Mentre avvolgo la testa del ferito con un panno, mi rivolgo all'altro superstite. Chi cazzo sono? Risponde in un fiato. Banditi, don Ludovico! Un'imboscata! Banditi senza Dio! Guardate come l'hanno ridotto! Impugno anch'io una pertica, dritto a prua, solcando un'ansa sconosciuta. La voce cavernosa del barcaiolo dei Michez. Peggio di un labirinto, signoria. Palude e serpenti. Per miglia e miglia. Nessuno ritorna. Protesto. C'è più di metà del carico su quella barca. Non ho alcuna intenzione di perderlo. Intravedo la poppa della barca. Non viaggiano troppo veloci. Forse non si aspettano di essere inseguiti. Ancora un'ansa sinistra. E poi di nuovo l'imboccatura di un canale strettissimo ci fa perdere l'orientamento. Mezzogiorno, il sole a picco, l'orizzonte inaccessibile. Nessun punto di riferimento, siamo ormai almeno un paio di miglia lontani dal fiume. Spingo la pertica con tutta la forza, mentre penso che ero venuto a Ferrara solo per prelevare un carico. Se consento ai pensieri di soffermarsi su dove sono e cosa sto facendo, quasi mi viene da ridere, ma mi trattengo. Che dietro di me Sebastiano sputa, impreca e gronda sudore, mentre percuote il fondo del fiume. Vedo sparire davanti ai miei occhi le due imbarcazioni come inghiottite dall'acqua. Cerco un dettaglio, un particolare sulla riva del canale per fissare il punto esatto in cui le ho perse di vista. Un albero morto coi rami immersi. Più veloce, più veloce! Le bestemmie di Sebastiano danno il ritmo alle bracciate. Ecco l'albero. Faccio cenno al gobbo di fermarsi. Frugo la sponda opposta con la pertica fino a scoprire un punto in cui il canneto si dirada appena. Non sembra un varco praticabile, ma non possono essere andati da nessun'altra parte. «Dentro!» Sebastiano insiste. «Signoria, date retta, di lì non si passa!» Un'occhiata al ferito. Il sangue si è fermato, ma ha perso i sensi. L'altro barcaiolo mi guarda con determinazione e raccoglie un piccolo remo. «Andiamo!» Faccio strada alla barca, scostando le canne, che si richiudono sulle nostre teste e dietro di noi. Con l'aiuto della pertica saggio il canneto palmo a palmo, poche braccia oltre la prua. Questa foresta potrebbe stendersi uniforme e compatta per molte miglia intorno a noi. Devo pensare soltanto all'invisibile sentiero d'acqua che attraversa, sentendo dove la vegetazione oppone meno resistenza. Procediamo cauti, in assoluto silenzio. Le canne finiscono all'improvviso, un acquitrinio si allarga fino a un piatto isolotto sabbioso. La barca. 5 uomini. Uno assicura la zattera, gli altri 4 trasportano le due casse. Si inoltrano su una lingua di terra. I miei due rematori riprendono il ritmo mentre raccolgo l'archibugio. Non ci hanno visti. Solchiamo rapidi l'acqua stagnante. Alza lo sguardo troppo tardi, quando già sto prendendo la mira. Il colpo solleva stormi di uccelli in ogni direzione. Quando il fumo si dirada lo vedo strisciare verso i compari. Una cassa viene lasciata, se lo caricano in spalla. Ci areniamo di slancio, sull'isolotto, sguaino la daga e sono il primo a balzare giù, nella melma fino alla cintola, piantato come un palo. Ho ancora voglia di ridere. Sebastiano prende terra più in là e mi sradica di peso. Andiamo, andiamo, signoria, stanno scappando! All'altro barcaiolo, carica l'archibugio e resta di guardia la barca. Al piccolo trotto, sulla lingua di terra, li vediamo arrancare con la cassa il ferito. Le bestemmie di Sebastiano sono proiettili sparati sui fuggiaschi. Ho il fiato corto e una gran voglia di ridere. Un'altra radura allagata è piena di isolotti fitti di canne. Se corro ancora un po', mi scoppia il cuore. Improvvisamente si fermano. Rallento. Sebastiano mi affianca sputacchiando. Respiro a pieni polmoni. Carico la pistola. Avanziamo. Sembrano armati solo di bastoni. Il ferito è steso per terra. Potrebbe essere morto. Facce luride e spaventate. Stracci lerci addosso. Magri. Capelli appiccicati alla testa come calotte di fango. Magri da fare impressione. Piedi scalzi. Ormai siamo vicinissimi. Punto la pistola. Un'occhiata al poveraccio per terra. Non è svenuto. Batte le palpebre. Non vedo sangue. In quel momento compaiono. Un breve fruscio di canne e spuntano una trentina di fantasmi cenciosi, bastoni appuntiti e falcetti in mano. Merda. Tutto intorno la palude. A perdita d'occhio. I miei bei vestiti, il gobbo Sebastiano appoggiato alla pertica, circondati dai selvaggi. Dunque, è così che doveva finire? Questa volta rido. Rido forte, sguaiato. Rido fuori la stanchezza e la tensione. Devo stupirli non poco, perché stringono gli arnesi al petto e indietreggiano dubbiosi. Dal fitto della vegetazione sale un trambusto. La sagoma svetta su tutte le altre. Un saio, coperto di fango. Due legni legati gli pendono dal collo a formare un crocefisso. Stringe in mano un bastone nodoso, con cui cala a fendenti a destra e a sinistra, blaterando parole incomprensibili. Si avvicina alla cassa e la apre. Lo vedo alzare gli occhi al cielo, sconfortato. Apostrofa ancora la torma con un tono di rimprovero. Viene verso di noi. «Perdono! Perdono, fratres, perdono!» La barba grigia più lunga della mia, incrostata di fango e insetti. Gli occhi, due braccia azzurre tra le rughe in cui sembra annidarsi una sporcizia secolare. I capelli scendono fino alle spalle e ricordano il nido di un uccello. «Perdonate, fratres! Semplici ingegni, sicut pueri! Per mangiare, mangiare solum, nunqua libra essere videro, non sanno!» In quel momento comincio ad avvertire il movimento sugli isolotti. Il canneto ha un ordine artificiale. Si intravedono pertugi, ombre animate, ampie reti sollevate da funi e bastoni a pelo d'acqua. Un villaggio. Per Dio, il canneto è un villaggio! «Loro non sanno de missione vostra, non possono, non sanno leggere, non malvagi, ignoranti, io...» Si porta la mano al petto. «Frate Lucifero, Franciscano!» Cerca le parole. «Non temete, frate, essere reverendissimi, io so, missi di abbazia», indica la cassa. «Libri cristianissimi, loro non sanno!» Si volta verso il branco, con frasi che non possiamo comprendere ma che suonano come una rassicurazione. «Venite, venite!» Come un segnale, e la radura prende vita. Donne e bambini escono dalle capanne e si affacciano sull'acquitrino. Gli uomini affluiscono verso le abitazioni in un vociare diffuso. Il ferito viene sollevato. Parla, partecipa anche lui allo stupore degli altri. Sebastiano è a bocca aperta. Lo trascino con me, intimandogli di tacere. Frate Lucifero, portatore di luce al popolo dei Reietti, nascosti nelle paludi del Po come in una roccaforte inattaccabile. Un acquitrino che si estende dalla foce del fiume fino alle Romagne. Terra di nessuno, lontana e selvaggia come il nuovo mondo. Frate Lucifero, spedito a evangelizzare questi dimenticati quasi 30 anni fa e dimenticato a sua volta qua giù, lontano dalla lingua corrente e dal destino degli stati, sperduto in una macchia di inchiostro sulle mappe, inseguendo l'esempio di frate Francesco d'Assisi, quasi avesse divelto la croce di Cristo per conficcarla nelle sabbie mobili di queste lande, a sfidare la superstizione pagana. 30 anni. Quasi impossibile da immaginare. 30 anni di distanza dalle sorti della Chiesa, da Lutero, Calvino, dall'Inquisizione e dal Concilio, a coltivare una fede fondata sulla pura carità verso gli umili. Senza far caso ai nostri abiti, ci ha scambiati per missionari come lui, frate Tiziano e frate Sebastiano, inviati dall'abbazia di Pomposa a difendere la dottrina e il libro per insegnarla. ci ha coperti di lusinghe sincere e ho mandato di officiare messa invece sua. Non ho potuto sottrarmi. E così Don Ludovico, gestore del bordello più lussuoso di Venezia, nelle spoglie di frate Tiziano, si è trovato davanti all'intero popolo della palude a celebrare l'unico rito religioso di cui sia capace. Ha ribattezzato tutti gli adulti, dal primo all'ultimo. Al momento di tornare indietro, c'è stata fornita una guida e in dono un barile di anguille vive, in cambio di una nuova fede e di due copie del beneficio di Cristo.